Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini Incrociati si trova in una grande aula, è piena di alunni in attesa del loro professore. Ridono, scherzano. Sono tutti giovani sui 20 anni, brillanti, intelligenti. Tutti giovani che si stanno preparando per un futuro difficile, anche se entusiasmante. Ragazzi e ragazze che hanno scelto uno dei mestieri più belli del mondo. Ma in un mondo duro, che per uno di loro che premia, 100 altri invece farà finire nel dimenticatoio. I ragazzi che stiamo sentendo in sottofondo sono studenti dell'Accademia d'Arte Silvio D'Amico, la più famosa scuola di formazione per attori e registi d'Italia. Per 4 anni questi giovani dovranno lavorare duro per ottenere i loro risultati, diventare artisti, che come ci spiega Mario Ferrero, regista e storico insegnante dell'Accademia, non è poi così facile. Non è che questo mestiere lo possano fare tutti, oggi c'è questa tragedia. Che tutti credono di poter fare gli attori e i registi, mentre ci vuole un tirocinio incredibile per avere veramente dei ferri del mestiere importanti. Non tutti possono diventare attori, perché a prescindere dalla vocazione o dal desiderio, esiste una cosa chiamata talento, che si ha o non si ha. Il talento, parola difficile, vaga, opinabile. Il talento è innato o si acquisisce? Questo è quello che pensa il vice direttore dell'Accademia di Roma, Lorenzo Salvetti. Cioè, bisogna ben capire che chi fa l'attore o chi fa il regista fondamentalmente deve voler comunicare. Ecco, quindi questo è chi è disposto ad aprirsi, chi è disposto a donarsi, chi è disposto a parlare con gli altri e anche chi ha qualcosa da dire e da compartire con un pubblico, quello forse è il talento. Poi imparare la dizione, imparare certe tecniche può essere utile, lo si può fare in accademia, lo si può fare fuori dall'accademia, ma in buona sostanza è questo aprirsi, questo mettersi a nudo, questo donarsi totalmente. E forse noi ce l'abbiamo tutti quanti dentro tutto questo e bisogna esercitarla, ecco, questa volontà se la si ha. È questa volontà che questi ragazzi stanno cercando di esprimere insieme ai loro sentimenti, le loro emozioni, i loro desideri. In questa difficile impresa vengono aiutati dai loro insegnanti, che negli anni sono stati tutti nomi eccellenti e importanti. Fra questi, a insegnare regia e di tanto in tanto anche recitazione per 20 anni, c'è un personaggio molto amato da tutti, per la sua simpatia e la sua grande capacità fabulatoria, l'ironia dei suoi interventi. È un regista teatrale e televisivo. In Rai vanta una carriera lunga 35 anni e in gioventù è stato anche lui uno studente dell'Accademia. L'insegnante che in questi primi anni Ottanta i ragazzi stanno aspettando in un'aula dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma si chiama Andrea Camilleri. Andrea Camilleri. La cattedra di regia dell'Accademia è stata offerta ad Andrea Camilleri solo pochi anni prima, nel 1977. Il regista ha 52 anni e sono 1000 i lavori per lo spettacolo che ha fatto in questi anni, come ama ricordare lui stesso. Ho fatto 1300 regie alla radio, 120, 130 in teatro e 80 e passa in televisione. Ho lavorato tanto anche come produttore in tutta la serie di Maigret, la serie di Sheridan, le avventure di Laura Storm, i grandi sceneggiati. Madonna, non uscivo mai da uno studio televisivo. Era un modo di... Ho insegnato all'Accademia, al Centro Sperimentale, fare spettacolo, fare teatro, televisione, eccetera. Era un modo di comunicare. Comunicare, questo è il segreto principale del maestro Camilleri. In parte qualità innata, in parte dote acquisita nei lunghi anni passati facendo spettacolo, la capacità di comunicare del regista è fuori dal comune. Episodi infinitesimali della sua infanzia, piccoli fatti osservati solo pochi minuti prima di entrare in aula, una varietà infinita di accadimenti quotidiani, figure umane, aneddoti appena raccolti, assumono, grazie anche alla sua caratteristica voce profonda, sfumature di humor e di tenerezza che lasciano incantati i suoi alunni. È facile sentire provenire il suono di gran risate dalle porte chiuse dell'aula di regia. Fra i suoi alunni del ciclo, che si diplomerà nell'84, c'è un ragazzo di poco più di 20 anni che in questo momento sta ridendo insieme agli altri per l'ultimo raccontino del maestro Camilleri. Ha un viso aperto, luminosi occhi grigio-verdi e un'energia che riesce a uscire fuori nonostante un atteggiamento riservato. Segue con attenzione la lezione, eppure sembra capitato in quella classe un po' per caso. Ed è vero, in un certo senso. Non aveva grandi aspirazioni quando ha sostenuto gli esami di ammissione, ma a volte il destino gioca strani tiri, perché in quel clima di allegra spensieratezza, quel giovane costruirà un tassello fondamentale della sua futura carriera. Intanto conosciamo meglio Andrea Camilleri, un siciliano doc arrivato a Roma alla fine degli anni 40 proprio per studiare regia all'Accademia. La guerra è finita da poco, Camilleri ha 24 anni, è un giovane allegro, sveglio, con tutte le prerogative del siciliano di buona famiglia, colto, allevato in modo tradizionale ma non tradizionalista. In casa si chiacchiera, si apprezza la buona cucina e intanto si fa della battuta di spirito un'arte preziosa, nel miglior stile siculo. Ed è questo humor sottile e disincantato che diventa la cifra umana e stilistica di Camilleri. Ma io credo che buona parte venga dalla Sicilia. Sono nato in Sicilia, sono vissuto in Sicilia, sono vissuto dentro una famiglia che siciliana più di così non ci poteva. Dio mio, mi nasce da lì. Noi avevamo in famiglia battute di spirito feroci l'uno verso l'altro. Non dipende. Certo che poi tu te la affini leggendo Gogol, leggendo Brancati. Da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Camilleri sbarca a Roma negli anni di ripresa post-bellica. C'è un senso di rinnovamento, di speranze e opportunità da raccogliere per chi è sveglio abbastanza. Il giovane Andrea ha abbandonato la facoltà di lettere per imbarcarsi in un'impresa inusuale per quei tempi, in cui il posto sicuro e un lavoro tradizionale erano la strada maggiormente percorsa. Il desiderio di diventare regista, però, non è abbastanza forte da fargli accettare l'allora dura disciplina dell'Accademia, soprattutto in fatto di ragazze. Dopo un anno di frequentazione, Camilleri viene espulso per condotta immorale. Erano i tempi in cui anche posare la mano sulla spalla di una ragazza veniva considerato sconveniente e c'erano molte ispettrici a garantire che un comportamento adeguato fosse mantenuto in Accademia. Cosa accadde a Camilleri non l'ha mai spiegato, chiaramente, ma diciamo che l'istinto alla trasgressione cresce in presenza di grandi divieti. Nonostante l'espulsione, Camilleri resta a Roma e inizia a lavorare come regista e sceneggiatore. La fine degli anni 40 e l'inizio dei 50 sono un momento esaltante per il cinema e le arti in generale. È l'inizio della stagione del neorealismo, del miglior cinema italiano. Rossellini, Visconti, De Sica raccontano un paese ferito dalla guerra, ma anche vivo, umano. Sono gli anni di Roma città aperta, di La terra trema, di Miracolo a Milano, Sciuscià. Ma anche la televisione si affaccia timidamente nella vita degli italiani. Il 3 gennaio 1954 la RAI va in onda per la prima volta sugli schermi in bianco e nero delle prime televisioni. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Per la prima volta nelle case degli italiani entra un mezzo che spezza le regole fino ad allora conosciute. La vita non segue più i ritmi lenti e naturali specifici di ogni famiglia, ma viene scompigliata dalla televisione che con i suoi orari, le sue trasmissioni, i suoi contenuti, ridefinisce desideri e necessità. In questa scatola sorprendente, gli italiani dei primi anni 50 scoprono mondi meravigliosi, luoghi sconosciuti, popoli diversi. Scoprono che a volte la solitudine può essere rischiarata, che l'ignoranza può essere corretta, che il mondo può assumere significati più vasti di quelli in possesso a molti di loro. Ma non solo. Fin dalla sua nascita diventa chiaro che è la televisione adesso che aggrega, la televisione che crea l'evento, la televisione che sceglie come informare, che fa divertire o piangere la gente. E se la televisione ha il merito di riempire vuoti e noie, ben presto rivela anche una capacità di influenzare che Pier Paolo Pasolini ben individua in una trasmissione condotta da Enzo Biagi. È proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Beh, io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari, che lo spettatore che davanti al teleschermo e rivive attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità, perché non può essere alla pari? Sì, teoricamente sì, questo può essere giusto. Alcuni spettatori che culturalmente, per privilegio sociale, ci sono pari, prendono le nostre parole, se le. Ma in genere proprio il video, le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto. Eppure all'inizio la televisione italiana si pone anche una missione fortemente pedagogica, con pochissime preoccupazioni rispetto a fattori oggi ormai imprescindibili come la ricerca dell'audience. Fra queste, Non è mai troppo tardi, condotta dal maestro Alberto Manzi, che nell'arco di 10 anni è riuscita a migliorare l'allora altissimo tasso di analfabetismo degli italiani. Fate bene attenzione, ricordate la lettera di sedia di casa unita insieme. Antonia, leggi per piacere. Vuola. Bene, signora. Signora, dalla stessa signora vorrei che mi leggesse quest'altra parola, per cortesia. Antonia, tu leggi. Scolaro. Camilleri si forma dunque in una RAI ancora consapevole del proprio compito educativo, che fa del servizio pubblico la sua missione. Il maestro ne eredita la filosofia, per poi trasmetterla nei programmi che in quegli anni cura sia come produttore che come regista. Riesce persino a portare in TV il teatro, con Finale di partita di Samuel Beckett, la pietra miliare del teatro dell'assurdo. Ma gli anni 60 sono anche la grande stagione degli sceneggiati, che probabilmente restano tra le cose migliori mai prodotte dalla RAI. Agli occhi di oggi i loro tempi possono apparire interminabili, la recitazione troppo teatrale, le ambientazioni quasi ingenue, ma hanno avuto il pregio di portare sugli schermi e nelle case degli italiani i grandi romanzi della letteratura mondiale. L'Idiota di Dostoevsky, La cittadella di Cronin, Il conte di Montecristo di Dumas, Mastro Don Gesualdo di Verga e tanti altri. A fianco a loro iniziano anche le serie dei gialli in TV, dal tenente Sheridan al più famoso di tutti, il commissario Maigret, con un mitico Gino Cervi. Il signor Dupro? Sì. È stato incaricato lei delle indagini? Sì. Il suo nome? Maigret. Andrea Camilleri per molti anni è il produttore di Maigret e del tenente Sheridan. Grazie a Maigret, Camilleri incontra persino il celebre Simenon, il prolifico scrittore belga che ha al suo attivo più di 450 romanzi, di cui 103 sulle avventure del commissario. Non sa Camilleri che fra qualche anno anche lui inizierà un'incredibile carriera di scrittore di gialli, con un protagonista che terrà incollati gli italiani davanti allo schermo tanto quanto succedeva con il Gino Cervi del commissario Maigret. Fra gli italiani davanti alla televisione a vedere Maigret e il tenente Sheridan ci sarà stata senz'altro anche la famiglia di quel ragazzo che negli anni 80 frequenta la classe di Camilleri. Quante volte lui e suo fratello piccolo avranno giocato a guardie e ladri immaginandosi uno di questi personaggi? E cosa avrà preferito il nostro ragazzo, la pipa del commissario francese o l'impermeabile bianco del tenente americano? La carriera di Andrea Camilleri in Rai è lunga e proficua, anche nelle relazioni professionali. È qui che incontra molti dei personaggi che hanno fatto la storia della televisione, da Ugo Gregoretti a Nanni Loi, da Gino Landi ad Antonello Falqui, regista di Studio 1 condotto da Mina. Grazie, però è facile dire brava. Beh, facile. Per esempio c'è Bruno, no? Canfora, che è uno molto pignolo, molto severo. Non mi ha mai detto brava in vita sua, mai una volta, mi ha detto solo questo. Dunque, io ti ho preparato una canzone. Se tu riuscirai a cantare questa canzone, io ti dirò che sei brava. Siccome è una sfida, io mi vedo costretta a raccogliere, però senza responsabilità, eh? Ma che cosa non so fare? Ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Solo come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come questo ricchissimo bagaglio di esperienze, Camilleri giunge in Accademia nel 1977. Le sue capacità fabulatorie fanno il resto. I ragazzi che abbiamo lasciato in classe adesso stanno uscendo lentamente dall'aula, mentre alcuni restano ancora a scambiare due parole col maestro. Fra questi il giovane dagli occhi grigio-verdi, di cui ancora vogliamo tacervi il nome. È iscritto al corso operatore, anche se non è molto convinto che questa sia la sua strada, al contrario di quello che pensa Camilleri, che vede in lui la stoffa del grande interprete. Il ragazzo, invece, 6 mesi dopo essere entrato in accademia, avrebbe già voluto andare via. E invece nel 1984 si diploma e inizia la sua carriera, mentre Camilleri resta in accademia ancora per molti anni, ben oltre la sua pensione. Per quanto brillante, intelligente e pieno di interessi, a Camilleri si pone il problema comune a tutti i pensionati: come riempire le proprie giornate. A quasi 70 anni non sono molte le attività fra cui scegliere. Così Camilleri riprende l'amore mai sopito per la scrittura. Anni di sceneggiature per la televisione, il teatro e persino per qualche spaghetti western gli hanno regalato non solo una consolidata esperienza, ma soprattutto la consapevolezza che è la scrittura il mezzo migliore attraverso cui esprimersi in questa fase della sua vita. Così ogni mattina, con una metodicità e disciplina che ricordano molto da vicino quella di Georges Simenon, che tutti i giorni di buon'ora sedeva alla sua scrivania per almeno 2 ore senza che nessuno potesse disturbarlo, Camilleri inaugura il rito quotidiano della scrittura facendosi bene la barba, indossando una camicia fresca, cincischiando con le cose intorno a sé, per poi mettersi a lavorare al suo computer, con cui più volte ha raccontato di avere un rapporto di odio e di amore. Accanto a sé, l'immancabile sigaretta accesa. E qui apriamo una parentesi, perché quando si parla di Andrea Camilleri non si può evitare l'argomento fumo. Tabagista convinto e regolare, il vizio di Camilleri è così noto che persino frutto di famose prese in giro, la più divertente delle quali è di Fiorello, a Viva Radio 2. Vabbè, il maestro... Eccolo qua! Andrea Applauso, Camilleri, bravo. Andrea Camilleri. Maestro, buongiorno. Sono leggermente nervoso. È un po' nervoso, eh? Ho smesso di fumare. Ha smesso di fumare? Da quando? Da 10 minuti. Ah, ecco. Se arrivo a 20, sì? Faccio una festa. Sì. Sto accarezzando ancora l'ultimo mozzicone. Come quando mi sono morti i cani. Me lo ricordo, si chiamavano, sì, Lucky e Strike. Immaginavo. Ovviamente li ho fatti cremare. Certo, eh. Pensaci, sì, ho ancora la porta cena. Senta, come sono morti i cani? Che domanda. Come sono morti? Secondo come te? Sono morti? Erano cani da compagnia, no? Sono morti da fumo passivo. Giustamente, cioè, si chiede. Davanti al suo computer, Andrea Camilleri inizia a scrivere romanzi che prendono spunto da vicende del passato, come Il birraio di Preston o La concessione del telefono. Ma nel frattempo inizia anche a disegnare i tratti di un commissario di polizia. Il giallo per lui non è affatto un genere minore, anzi. Ed evidentemente oggi buona parte della letteratura italiana vive sulla tirante del giallo. Certe cose, certi romanzi non sono gialli, hanno l'apparenza del romanzo giallo. In realtà va a finire che aprono degli squarci, degli orizzonti su quello che è alcune realtà della società italiana contemporanea. C'è niente da dire. Attraverso il giallo si finisce col contrabbandare veramente un altro tipo di romanzo. Nasce così nel 1994 il personaggio del commissario Salvo Montalbano, che appare per la prima volta nel libro La forma dell'acqua. Poco dopo viene seguito dal volume Il cane di terracotta e infine un terzo romanzo intitolato Il ladro di merendine. Un terno vinto al lotto sulla ruota di Camilleri. Il successo è immediato, così tanto che Camilleri deve rivedere le sue idee sul futuro del personaggio. I miei rapporti col personaggio Montalbano, io lo volevo far morire al secondo romanzo, far scomparire. Se non che questo personaggio incontrò talmente il favore del pubblico che sono stato costretto a continuarlo. Ora, intendiamoci. Costretto relativamente, perché se io non provo piacere nella scrittura non scrivo, molto semplicemente. Nessuno mi obbliga a scrivere una cosa che non ho voglia di scrivere. Quindi se da una parte dico che la presenza di Montalbano è in un certo modo ossessionante, dall'altra parte è anche una continua scommessa, perché a me piace molto scommettere con me stesso. Come si fa, arrivata al 17° romanzo di Montalbano, a raccontare una storia sempre nuova e diversa, che non sia ripetitiva? Questa è sempre già una grossa scommessa che fai con la tua inventiva. Se nella struttura i romanzi di Montalbano sono debitori di Maigret, da cui Camilleri ha imparato il meccanismo del giallo, per quel che riguarda il nome, questo viene dal grande scrittore spagnolo e amico di Camilleri, Manuel Vázquez Montalbán, il creatore del detective privato Pepe Carvalho, con il quale condivide anche il gusto per la buona cucina. Ma i romanzi di Montalbano conquistano gli italiani soprattutto per l'umanità del personaggio, l'ambientazione in una terra ricca di peculiarità e la lingua, un italiano fortemente contaminato dal dialetto siciliano. In breve tempo le vendite dei libri del commissario Montalbano sono tali che nel 1998 la RAI decide di portarlo sullo schermo. È a questo punto che la vita del ragazzo che abbiamo incontrato nell'aula dell'Accademia si intreccia profondamente con quella del suo maestro. Gli appuntamenti importanti hanno due soli avverbi: qui e ora. Right here, right now, right here, right now. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati è il 1998. Alla RAI sta iniziando la produzione di una nuova serie televisiva che ha come protagonista il personaggio di una serie di romanzi di grande successo, il commissario Montalbano. Grazie a Montalbano, due destini stanno per incrociarsi e fare uno la fortuna dell'altro. Sono il regista e scrittore Andrea Camilleri, a suo tempo anche docente all'Accademia di Arte Drammatica di Roma, e un ragazzo che nei primi anni Ottanta seguiva i corsi del maestro e che poi è diventato attore. Questo ragazzo, ormai uomo, nei prossimi 10 anni, si ritrova a legare indissolubilmente il suo destino con quello del protagonista dei romanzi di Camilleri, tanto che la gente comune lo chiama ormai Montalbano. Ma il suo nome è un altro. È un nome che col tempo è diventato uno dei più conosciuti e amati dagli italiani. Il suo nome è Luca Zingaretti. Luca Zingaretti. Ma torniamo un attimo indietro nella vita di Zingaretti, agli anni dell'Accademia. È una sera imprecisata della metà degli anni Ottanta. Sul palcoscenico di un teatro sta andando in scena La Santa Giovanna di Bernard Shaw, diretta dal grande regista Luca Ronconi. Mentre Adriana Asti, nei panni della Pulzella di Orléans, si sottopone al giudizio del vescovo Cochon, in fondo al palcoscenico, due alabardieri lottano contro la fatica di stare in piedi per le 3 ore di durata dello spettacolo. Sono Luca Zingaretti e Massimo Popolizio, altro grande attore ronconiano, che così ricorda quella tournée. Abbiamo fatto una tournée di 8 mesi, al minimo della paga. Io mi ricordo quella tournée come... è lì che ho... insomma... cioè, era comunque andare via da casa, era fantastico. Cioè, stavamo con Zingaretti, che era il mio compagno, con una macchina che si chiamava La Zingara, perché era un Mercedes del 50. Quindi andavamo con ci fermava tutte le polizie del mondo, ci fermavano perché una Mercedes, cioè, con dei disgraziati dentro, con queste facce, ci fermavano. E però mi ricordo mangiare l'uovo fritto in pensione, risparmiare, insomma, erano veramente. Però è stato divertentissimo. Quella tournée significa mesi di gavetta in cui Zingaretti impara il mestiere piano piano. Mesi trascorsi nell'attesa di dire quelle uniche 2 parole che il copione prevede per tutta la serata. E nell'attesa, intanto, si può capire. Ci si può chiedere perché lì arriva una risata, perché là il pubblico si commuove, perché quella battuta viene detta in quel certo modo. Zingaretti ascolta gli attori esperti, capisce come si legge un testo teatrale e scopre che anche stando fermo e in piedi per 3 ore con una alabarda in mano c'è molto da fare. C'è da imparare il mestiere dell'attore. La pazienza, la capacità di comprendere i riti legati a uno spettacolo, di dover interpretare un ruolo, ma di sentirsi anche parte di una squadra, sono tutte qualità che Zingaretti ha mutuato dall'altra grande sua passione, il calcio. Fin da piccolo sotto casa nel quartiere della Magliana, poi i primi campetti e l'esordio alla San Paolo Ostiense, fino ad approdare a 17 anni come semiprofessionista alla squadra del Rimini. Scuole e allenamenti tutto il giorno e poi a dormire presto. Per Zingaretti il calcio resta una passione che non solo lo impegna come titolare della squadra nazionale degli attori, ma anche in altre attività legate al pallone, come commentatore o come quando è stato la voce del film ufficiale sui mondiali di calcio Germania 2006. Pelé lo chiama il gioco più bello e il mondo la pensa come lui. Il calcio è il nostro gioco, appartiene a tutti noi, ai bambini di ogni continente come ai 250 milioni di giocatori tesserati. Le ragioni dell'abbandono del calcio agonistico sono, come racconta lo stesso Zingaretti, legate alla vita. C'è la prima fidanzatina rimasta a Roma, gli amici e poi la voglia di parlare di qualcos'altro. Luca vuole misurarsi con discorsi più seri, prendere parte in qualcosa di più grande. C'è voglia di politica. È il 78 e a Roma e in tutto il resto dell'Italia sono la politica, gli ideali, l'impegno che la fanno da padrone. Sono i famosi anni della contestazione studentesca. Le radio libere si fanno veicolo della cultura alternativa. Alla fine degli anni 70 la capitale è attraversata in continuazione di cortei di giovani che manifestano, spesso arrivando a veri e propri scontri di piazza con la polizia. Il nostro protagonista è fra i manifestanti, ma senza mai arrivare all'estremismo. La famiglia Zingaretti è di sinistra, Luca milita nel PDUP, ma senza essere ideologico, come ha più volte ripetuto. Per lui essere di sinistra significa solo essere onesti e parteggiare per quelli che se la passano peggio. Ma a differenza del fratello Nicola, attuale presidente della provincia di Roma per il PD, dopo gli anni della contestazione giovanile, Zingaretti lascia ogni forma di politica attiva. In famiglia basta un fratello. La fine degli anni Ottanta mostra uno Zingaretti che ormai ha scelto la sua strada. Oltre al teatro con Ronconi, arrivano le prime particine al cinema, fra le quali gli occhiali d'oro di Montaldo con Noiré e Rupert Everett. Ma deve aspettare ancora qualche anno per il suo primo ruolo veramente importante, un ruolo da cattivo. Nel 1994 il regista Marco Risi sceglie Luca nella parte di Ottorino nel film Il Branco, storia di una violenza sessuale collettiva da parte di un gruppo di giovinastri della provincia romana che scuote le coscienze. La parte è crudele, feroce, violenta. E non è la sola. Due anni dopo è la volta del film di Ricky Tognazzi, Vite strozzate. Zingaretti è Sergio, lo spietato usuraio che rovina l'esistenza di Sabrina Ferilli e di suo marito Vincent Cassel. E per la televisione Luca si trasforma in un rozzo contadino mafioso ne La Piovra. È difficile credere che il sorriso aperto e lo sguardo trasparente di Luca Zingaretti possano trasformarsi così crudelmente. Ma sembra che i ruoli da cattivo per un attore siano i più interessanti. L'attore riesce a infondere una cattiveria psicologicamente raffinata nei suoi ruoli oscuri. Sempre in quei primi anni 90, nella vetrina delle librerie di Roma, i primi romanzi di Andrea Camilleri con il commissario Montalbano protagonista fanno bella mostra di sé. Fra le migliaia di persone che acquistano i tre volumi c'è anche Luca Zingaretti. Se all'inizio è stata la curiosità per il suo vecchio insegnante ad avere convinto Luca a comprare i libri, dopo la prima lettura l'entusiasmo è interamente riversato sul personaggio di Salvo Montalbano. Zingaretti capisce immediatamente che fra le pagine dei romanzi si cela già una perfetta sceneggiatura, la trasposizione per il piccolo schermo è già fatta. Non a caso Camilleri è stato per anni uno sceneggiatore della RAI. Anche Zingaretti sta iniziando a lavorare alla RAI. Piccole parti in attesa di un ruolo più importante che arriva nel 97 con La Piovra 8, dove la sua interpretazione viene molto apprezzata dalla critica. Si rende conto che la televisione, pur non avendo il fascino del teatro e la forza del cinema, ha il pregio di entrare nella casa di chiunque e attraverso la serialità di fare affezionare il pubblico agli interpreti dei loro programmi preferiti. Ed è questa la potenzialità che percepisce leggendo le pagine del suo antico maestro Camilleri. L'attore prova dunque ad acquisire i diritti di utilizzo dei romanzi, ma non ci riesce. Però quando nel 98 la RAI annuncia l'avvio della produzione di Montalbano, Zingaretti fa di tutto per partecipare al provino per la parte del commissario. Quando il regista Alberto Sironi lo vede, pensa subito: «Eccolo qua, il mio Montalbano. Il ruolo è suo». Luca Zingaretti è una persona schiva, ha fama di carattere riservato, poco mondano, lontano dallo star system, dall'intrallazzo, dalla lusinga. Prima di vincere il provino, si guarda bene dal chiamare Camilleri, di usare il rapporto che li ha legati un tempo per chiedere favori, prendere scorciatoie. Aspetta. Ma quando la parte è sua, chiama subito il suo antico maestro dicendogli: «Sono felice, anche se me la faccio sotto». Eppure è proprio quell'antico legame che lo aiuta a comprendere le sfumature più sottili del personaggio di Montalbano. Conoscendo Camilleri, le sue ironie di spiccato stampo siculo, i gusti, le manie dell'ex insegnante, è come se Zingaretti avesse già da tempo iniziato a studiare il suo nuovo personaggio. Capisce subito come vuole che risulti, anche se ancora non sa esattamente come ottenere quel risultato. Camilleri è felice della scelta e partecipa con entusiasmo alla produzione. Ricorda il suo antico alunno con affetto e stima, l'ha spesso seguito a teatro. C'è un unico neo iniziale. Nella sua mente Zingaretti è fisicamente ben lontano dalla sua idea, per quanto nebulosa, del personaggio inventato sulla carta. La verità è che io fino al secondo terzo romanzo Montalbano non me lo sono mai figurato come era intero. Era come un puzzle, cioè avevo delle tessere di mosaico, cioè i baffi, cioè i capelli, avevo un burretto qua. Ma oltre com'era non l'ho mai saputo. Baffi, capelli. Il Montalbano di Zingaretti è pelato, niente baffi e soprattutto ha uno scarto di più di una decina d'anni rispetto all'età del vero Montalbano, che nei libri sembra essere nato nel 1950. Eppure sta per verificarsi una totale sovrapposizione fra la figura del commissario e quella dell'attore romano. Grazie all'interpretazione perfetta che Zingaretti dà del suo Montalbano, la figura del poliziotto diventa precisa, potente, reale. Persino per il suo autore Camilleri, che impressionato dalla rappresentazione di Zingaretti, sarà costretto a riadeguare la sua personale immagine mentale del commissario, riconoscendo il minuzioso studio che l'attore ha operato sul carattere del personaggio. Destini incrociati. A destini incrociati l'incontro fra l'ex professore Andrea Camilleri e l'ex alunno Luca Zingaretti, grazie al personaggio del commissario Montalbano, dà il via a un'incredibile sinergia televisiva, oltre che umana. Se Luca Zingaretti nella parte del commissario c'entra in pieno il ruolo principale della sua carriera, per Camilleri la realizzazione della serie televisiva ispirata ai suoi racconti significa un'esplosione di notorietà inaspettata. Dal 1999 al 2008 vengono realizzati in Sicilia 18 episodi nell'arco di 7 stagioni televisive. La troupe gira nei luoghi che Camilleri ha trasformato ad arte nei suoi romanzi. La sua città natale, Porto Empedocle, che è diventata il paese immaginario di Vigata. E poi Ragusa Ibla, Modica, Noto, Scicli, luoghi di bellezza straordinaria. I siciliani imparano ad amare Montalbano, alias Luca Zingaretti, come se fosse uno di loro, come ci racconta il regista Alberto Sironi. I siciliani amano Montalbano in un modo viscerale, proprio. La gente, noi quando giriamo, addirittura confonde il personaggio con l'attore. Qualche volta ci sono persone che si avvicinano a Luca e gli chiedono ma ci sono dei problemi, perché non viene a risolvermeli. Mi ricordo una volta, un giorno ci ha fermato un contadino e ci ha detto: magari la giustizia italiana fosse come voi. E ancora di più la fantasia alla realtà, nel 2003 Porto Empedocle, per onorare Camilleri, decide di aggiungere Vigata al nome ufficiale. Forse uno dei pochi casi in cui la geografia si adatta alla letteratura. Ma cos'è che piace così tanto del commissario Montalbano? Ce lo spiega Zingaretti stesso. Il commissario Montalbano è un uomo, è un personaggio a cui noi maschietti vorremmo assomigliare e che le donne vorrebbero avere accanto. Questo per vari motivi. Io citerò quelli che per me sono i più importanti. Uno, per il suo senso etico, pratico. In un paese che forse in questo momento l'eticità è una merce non così diffusa. E l'altro perché comunque un uomo, e questa è una cosa più personale, cioè più sua, più di personalità, è un uomo che pone al centro della sua vita, il baricentro della sua esistenza è dentro di sé. Cioè lui dice: io di che cosa ho bisogno per essere felice? Questo e questo, la mia casa, il mio cibo, la mia donna vicina ogni tanto, il mio mare, le mie nuotate, e in base a questo agisce, tant'è vero che non fa carriera, non gliene frega niente, non è un uomo che mondano, eccetera. Quello che piace alla gente di Salvo Montalbano è la sua assoluta autenticità. Montalbano non è un supereroe, al contrario. Camilleri ha imparato dalla figura di Maigret insegnamenti importanti, come il saper trasmettere al commissario quell'umanità, quelle piccole manie, quei tocchi di assoluta naturalità che ce lo fanno sentire vicino. Ma Sto mangiando la pasta con i broccoli, chi è che rompe? Alla base del carattere del commissario Montalbano ci sono dunque tutti questi ingredienti forti, sapidi. Quando la penna e il senso of humor di Camilleri si incontrano con lo spirito di Zingaretti, con la spontaneità e l'onestà della persona, prima ancora che del personaggio, allora sì che si creano le scintille. Il senso etico di cui parlava prima Zingaretti, la mancanza di ambizione sfrenata, l'onestà prima di tutto rispetto a se stessi e le proprie responsabilità, sono forse caratteristiche sostanziali non solo per Montalbano personaggio, ma soprattutto per lo Zingaretti uomo. Per questo la sovrapposizione è risultata poi così naturale. Non è per missione, ma nemmeno per gioco, non è che ti importa, non è tanto è uguale, non è invecchiare cambiando canale, non è un dovere, dovere invecchiare. Ma dopo qualche anno Zingaretti sembra abbia paura di questa simbiosi con Montalbano e nel 2005 annuncia la volontà di smettere di vestire i panni del commissario. L'attore ha bisogno di misurarsi in altri ruoli. C'è il cinema che lo aspetta, con progetti importanti come Sangue Pazzo di Marco Tullio Giordana, presentato a Cannes, A Casa Nostra di Francesca Comencini, dove torna a vestire i panni di un cattivo, I Giorni dell'Abbandono di Roberto Faenza, o l'interpretazione di Don Puglisi, il prete ucciso dalla mafia, in Alla luce del sole, sempre di Faenza, per la Rai. Il problema però è che Andrea Camilleri, nel suo studio, circondato dai suoi libri e con vicino le sue fide sigarette, continua a scrivere nuove avventure del commissario Montalbano. Escono La vampa d'agosto, Il campo del vasaio e molti altri. E questa alleanza così proficua fra il creatore e l'interprete di uno dei personaggi più amati dagli italiani non può morire. Soprattutto perché il commissario Montalbano ha insita nel suo personaggio una capacità di evolversi, di crescere e di cambiare che difficilmente si trova in altri caratteri letterari. A un tale livello che pare quasi agisca in sua totale autonomia, costringendo sia Camilleri che Zingaretti ad assecondare i suoi guizzi o le levate di testa. Zingaretti non può fare altro che cedere a Montalbano e tornare sui suoi passi. A me mancava Montalbano, mancava il piacere di provarmi come attore professionalmente con questo personaggio che nel frattempo andava avanti, si era evoluto. Mi mancava il fatto di andare a girare in quei luoghi, mi mancava il sole della Sicilia, mi mancavano le persone che hanno vissuto più o meno lontane da, o vicine dal set. Quando giriamo in campagna spesso e volentieri arriva qualcuno con un prodotto, la ricotta calda, il pane caldo, piuttosto che i cannoli. E poi mancava la gente, insomma, diciamo che Montalbano è una famiglia, no? Vigata a Porto Empedocle riapre ancora le sue braccia al simpatico attore romano ormai naturalizzato siculo. Si riaprono le persiane della villa Marinella, dalla cui terrazza il commissario si tuffa nel mare. Una nuotata per rinfrescarsi, un po' di sole e poi una controllata nel frigorifero per vedere cosa ha lasciato di pronto la fida cameriera Adelina. A pochi passi da lì c'è la trattoria che lo stesso Camilleri frequenta quando torna in visita al suo paese. I piatti che scelgono sono gli stessi, pesce e ancora pesce. Grazie alla televisione un personaggio letterario ha preso vita, entrando nelle case di tutti gli italiani con grazia e simpatia. In questa terra di Sicilia, sotto l'egida del commissario Montalbano, i destini di Andrea Camilleri e di Luca Zingaretti si sono riuniti, riuscendo a fare uno scatto che ha segnato le carriere di entrambi. Ma non solo. L'arricchimento è avvenuto anche nelle loro vite, con una rinnovata capacità di sentire il profumo dei mandorli in fiore, del mare, delle emozioni e dei valori più veri. E sotto sotto, forse, entrambi gli uomini oggi possono dichiarare all'unisono: Montalbano sono. Ruba anche l'ombra di fico che copre il cicalar dell'acquamare, che vedo bianco di calce pale pigramente virare. Carena di sonno nella rete del sogno meridiano, che come rena mi fugge di mano. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.